Buongiorno. E buongiorno a tutti e a tutte. Siete sempre sintonizzati su Radio Onda Rossa e questa, come ogni giovedì, più o meno alle 4, è Attica Blues. E allora il primo saluto è inevitabilmente per Pietro, che non è qui con noi in studio ma è a Venezia in vacanza e ci ascolta dalla gondola. E allora la prima puntata dell'anno l'abbiamo dedicata ai grandi incontri del jazz e quindi avremo modo di ascoltare questi grandissimi incontri che ci sono stati negli anni fra grandi musicisti. Iniziamo subito con un duo d'eccezione formato da Oscar Peterson al piano e Mill Jackson al vibrafono. Loro si sono incontrati negli studi di New York nel 20 gennaio del 1983 e iniziamo appunto con un brano di Mill Jackson che si chiama Reunion Blues. Thank you. of the Few è il titolo di questo bel album, di questo incrocio di fra due maestri dei loro rispettivi strumenti in un dialogo continuo. Sul piatto numero 2 c'è ancora Oscar Peterson, qui in compagnia di Dizzy Gillespie. Ci spostiamo a Londra in una registrazione del 28 novembre del 1974. Il brano è a firma di Duke Ellington ed è la stracelebre Caravan. I nostri contatti, a iniziare dal telefono 06 49 17 50 e poi le nostre pagine social Facebook, Twitter e Instagram, basta cercare Attica Blues e usciamo noi. Thank you. e lasciamo questo meraviglioso duo per sentirci altri due musicisti davvero notevoli di generazioni diverse. Parliamo di Michel Petrucciani al piano e Lee Konitz al contralto. Lee Konitz, tra l'altro, che quest'anno festeggia i 90 anni passando alla Impulse, quindi in piena attività. Qui ci spostiamo a Parigi in un disco, in un bel disco Tout Suite, registrato nel maggio del 1982. Questa è la traccia che chiude il disco, si chiama Lovely ed è a firma di entrambi i musicisti. Rimaniamo con Michel Petrucciani, qui siamo 3 anni più avanti, nel 1985, è ancora un duo. Lui era solito spesso duettare con un altro musicista, qui il protagonista è Ron McClure al contrabbasso. Un bel disco, si chiama Cold Blues, e ci sentiamo appunto la traccia che dà il titolo anche all'album, Cold Blues. Thank you. Wow, e rimaniamo sempre in un duo formato da piano e contrabbasso. Qui siamo in epoca più recente, nella registrazione del 2010 per la ECM. Parliamo del piano di Keith Jarrett e del contrabbasso di Charlie Haden, i due musicisti che già negli anni 70 formavano un trio meraviglioso completato da Paul Motion in svariati dischi usciti per la Impulse, e qui si sono ritrovati in studio appunto 6 anni fa per dar vita a un disco Jasmine, poi replicato a distanza di qualche anno dopo. Quella che ci sentiamo è No Moon At All. rimaniamo ancora con Jarrett, ma torniamo indietro, siamo nel 1971 e quindi le atmosfere si fanno più psichedeliche, più elettriche, e qui l'incontro è quello con il vibrafonista Gary Burton in un quintetto poi completato da Sam Brown alla chitarra, Steve Swallow al basso elettrico e Bill Goldwyn alla batteria. Qui siamo appunto con l'Atlantic e il brano è a firma di Jarrett e si chiama Grow Your Own. Completamente diverso da quello in cui ci siamo poi abituati a ascoltare in questi anni. Qui lui non suonava veramente con chiunque, e anche la copertina con la canottiera faceva ben vedere che era un artista totalmente diverso da quello paranoico di ora, che non si fa neanche fotografare. questi sono i meravigliosi anni 70 che hanno visto Jarrett protagonista di formazioni elettriche, di dischi in solo e concerti in solo, ricordiamo il Cole Concert del 1974, e anche di quel trio che poi caratterizzerà la carriera di Jarrett dagli anni 80 in poi. E adesso torniamo indietro, siamo nel 1966 e l'incontro è quello fra l'organista Jimmy Smith, il chitarrista Wes Montgomery e l'orchestra diretta da Oliver Nelson. Quella che ci ascoltiamo è Baby It's Cold Outside. Produzione che in quegli anni probabilmente solo la Verve si poteva, e forse la Columbia, permettere, e che vede in sala di registrazione gente del calibro di Ray Barretto alle congas, Clark Terry alla tromba, Phil Woods al sax contralto, Richard Davis al contrabbasso e soprattutto Oliver Nelson a dirigere il tutto e ad arrangiare. We'll be right back. Dalle atmosfere invernali di Jimmy Smith e Wes Montgomery, che ben ci stanno poi in questo meteo freddo, passiamo e ritorniamo in Europa con un incontro fra due intellettuali, veri intellettuali musicisti francesi: Michel Portal al clarinetto basso e Richard Galliano al bandoneon. E quella che ci sentiamo adesso è una composizione proprio di Michel Portal dal vivo e si chiama Mozambique. Tra l'altro loro sono stati grandi protagonisti anche in questa edizione di Orvieto dell'Umbria Jazz. Parliamo di Steve Wilson al sax contralto è Lewis Nash alla batteria, e quella che ascoltiamo adesso è una registrazione proprio presa da Umbria Jazz Winter, ma del 30 dicembre del 2013, e quella che ci sentiamo è un Island Birthday, un brano scritto da McCoy Tyner. Quanto inedito, appunto, formato da sassofono e batteria, ma i due che poi sono stati anche ospiti di un bel progetto, di una riproposizione della Guillemots Orchestra, accompagnati appunto da Paolo Fresu che faceva le veci di Miles Davis, un incontro veramente riuscito che abbiamo avuto modo di ascoltare il 30 dicembre. applausi più che meritati per questo duo atipico, però a cui non manca davvero nulla. E sul palco con loro a Umbria Jazz Winter c'era appunto Paolo Fresu, assoluto protagonista. Qui lo ascoltiamo in un incontro con Uri Kane, il grande pianista di Filadelfia, e l'Alborada String Quartet. Quella che ci ascoltiamo è un brano preso dall'album Tink del 2009, uscito per la Blue Note. È un brano a firma appunto di Uri Kane, si chiama Cowboys e Indian. E io questo meraviglioso brano lo dedico a Marianna, che proprio oggi festeggia i suoi 29 anni e si avvicina ai 30, e allora tanti auguri. Allora, con queste atmosfere barocche noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento ancora giovedì prossimo, questa volta si spera al completo, e lasciamo i microfoni a Marta con la sua Eschina del Sole. Ancora buon anno da Attica Blues.